America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi si apre a New York il Salone dell'Auto, ma ieri c'è stata una preview alquanto straordinaria. La musica è cambiata alla Chrysler, la Fiat ha il 46% del pacchetto azionario, questo coro che avete sentito è un coro di Detroit ingaggiato proprio dalla Chrysler per presentare qui al salone il suo nuovo modello. Avete sentito che straordinaria voce ha la cantante solista, era chiaramente un urlo di trionfo che Sergio Marchionne avrebbe apprezzato fino in fondo. La D di Chrysler non era presente all'inaugurazione del salone proprio perché preso da vicende ben più importanti. La notizia, la sapete, è una notizia di ieri, ma ci interessa capire che cosa significherà poi per Chrysler. Ve la riassumo brevemente: la Fiat ha esercitato l'opzione, ha acquistato per 1,27 miliardi di dollari questo pacchetto che la porta al 46% del controllo azionario Chrysler. Entro la fine dell'anno, nel momento in cui con un modello Dodge potrà dimostrare di aver fatto un prodotto straordinariamente efficiente dal punto di vista del consumo, potrà ottenere un altro 5%, questa volta gratuito, che porterà il gruppo torinese a un controllo del 51% della casa automobilistica americana. Ma non voglio parlarvi delle questioni finanziarie che già abbiamo affrontato ieri e in altri programmi, voglio parlarvi piuttosto di questa Chrysler che cambia. C'è stato uno straordinario cambiamento di immagine, pubblicità molto aggressive. Molti di voi ricorderanno la pubblicità che Marchionne ha autorizzato durante il Super Bowl con Eminem. Bene, qui a New York è stata presentata la nuova Chrysler 300C Executive Series, è stata introdotta dall'amministratore delegato di Chrysler Brand. La Chrysler 300C è uno sviluppo della vecchia serie, ha delle linee molto più morbide ed è definita la più lussuosa sedan mai costruita, la più lussuosa ammiraglia mai prodotta. E dunque la Chrysler cerca di riposizionarsi sul mercato come brand di lusso. Questo fa parte della strategia di Marchionne, un po' di diversificare la connotazione del brand. La parte più bassa del mercato sarà seguita soprattutto da alcuni prodotti derivati dalla Fiat, da altri brand del gruppo. Last month I asked my attorney general to look into any cases of price gouging, so we can make sure nobody's being taken advantage of at the pump. Today I'm going to go a step further. The attorney general is putting together a team whose job it is to root out any cases of fraud or manipulation in the oil markets that might affect gas prices. And that includes the role of traders and speculators. We're going to make sure that nobody's taking advantage of American consumers. E questo è Barack Obama che in viaggio in California ma parla di benzina e dice: oggi ho chiesto al procuratore generale di formare un team di esperti per escludere ogni dubbio di frode o manipolazione nel mercato del petrolio che possa incidere sui prezzi della benzina. La benzina in America, come un po' dappertutto, ma qua in particolare, è aumentata molto e il presidente ha approfittato di un discorso in California per promuovere l'utilizzo dell'auto elettrica. E dunque perché c'è un collegamento col presidente che pure si trova in California? Beh, perché ieri è stata scelta sempre a New York l'auto dell'anno, è la Nissan Leaf, che è un modello completamente elettrico. Sentiamo cosa ha detto Trinity Scott, che è lo specialista prodotto di Nissan. And you know they had those initial rounds or 20,000 orders made in that first round, and there's been consumer upon consumer questioning us at all the shows when the next one is going to open, and they are opening that this spring. Dice che c'è stata una domanda molto buona, hanno cominciato a raccogliere ordini a partire da settembre. Il messaggio centrale che emerge da questo salone è che è giunto il momento di voltare pagina e per tutti, consumatori inclusi, di cominciare a pensare al motore elettrico. Una curiosità: c'è stata anche una macchina della Porsche, pensate, una macchina che si chiamava Semper Vivus, ed era un modello ibrido elettricità e benzina del 1900. Però naturalmente allora era impossibile poter immaginare che una macchina di quel genere potesse avere un mercato e dunque uscì di produzione. È stato ricreato questo modello identico 111 anni dopo. It worked, but how viable really was it? Because at that time many different technologies were developing. But things and times change 100 years later. Parla Dave Eggleman, appunto, di Porsche, il quale spiega che non aveva molto valore sul mercato allora perché all'epoca si stavano sviluppando tecnologie molto diverse fra loro e alla fine ha prevalso il gasolio. Però chiaramente è una grande bandiera anche per la Porsche per cominciare a darsi un taglio diverso. Bene, abbiamo ai microfoni di America 24 Flavio Pompetti, collaboratore del Messaggero, collaboratore di numerose testate automobilistiche italiane, un esperto del settore che vive qui in America da molti anni. Buongiorno Flavio. Buongiorno a te Mario e ai tuoi ascoltatori. Dunque, io ho parlato di quest'auto elettrica, di questa Nissan Leaf, della Porsche che ha introdotto un vecchio modello che aveva fatto addirittura 111 anni fa. Insomma, da una parte c'è un po' il sogno, dall'altra abbiamo ascoltato Barack Obama che dalla California ha detto pensiamo alle auto elettriche, ma insomma è un sogno che potrà diventare realtà o per ora siamo ancora alla mera vetrina? La realtà è che rispetto all'impegno politico e agli investimenti che in questo momento ci sono nel campo dell'elettrico, quando poi si arriva al mercato a controllare con i numeri di mercato quello che sta succedendo e quanto i consumatori gradiscono i prodotti elettrici che sono in circolazione, si vede che a parte il capitolo della Prius, che è questa stella del firmamento dell'elettrico su strada, per il resto le presenze sono tutti numeri che veramente fanno fatica a descrivere una dimensione industriale. Ecco, quindi ci vorrà tempo, ci vorrà parecchio tempo, ci vorrà poco tempo. So di questo esperimento israeliano che hanno fatto con questi distributori, no, di cariche elettriche con un modello che sembra abbia molto successo. Ci arriveremo anche noi? Ci arriveremo. Il settore più eccitante in questo campo è quello della ricerca, senz'altro. Ci sono progetti di tutti i tipi, è come essere proprio sulla soglia di questa rivoluzione. Ecco, nel contempo Flavio, la musica è cambiata anche sul fronte ovviamente del carburante, costa molto caro, Barack Obama ha fatto vari ammonimenti, addirittura ha detto voglio fare verifiche che non ci siano speculazioni. Questo cambia anche il posizionamento di mercato dei produttori, perché mi pare che a New York ci sono anche innovazioni su quel fronte. Sì, una delle cose più visibili dello show di New York di quest'anno è l'ampliamento della gamma della classe A della Mercedes, che è venuta qui a New York a lanciare l'idea di fornire la classe A di una serie di nuovi modelli, il che vuol dire che anche un grosso costruttore di auto di lusso europeo come la Mercedes punta su una modifica delle abitudini degli americani. Gli americani stanno cominciando a comprare sempre più auto di stazza più piccola che in passato, tutto lascia prevedere che a breve termine i piccoli segmenti saranno quelli che avranno più successo nell'immediato futuro. Anche il lancio della 500 oggi a New York è sulla stessa linea. Il pubblico americano si entusiasma per la prima volta per vetture che fino a pochissimi anni fa consideravano impossibili per questo mercato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Esce oggi online l'ultimo attesissimo video di Beyoncé, Run the World Girls. Sempre a partire da oggi il nuovo single è disponibile su iTunes di Beyoncé, Run the World Girls. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà buona Pasqua e appuntamento a martedì. Goodbye and get going! America 24.